Zot. Fulminati in azienda. Allora, ho detto innovazione ed innovazione deve essere. Marco, stiamo lavorando con sti nanotubi che ancora non si è capito che sono. Se ne sta occupando Pacco, stagista, insieme a quelli da ricerca. Va bene, ma non basta. C'entra innovazione, porta business. Voglio roba più concreta che coinvolga le persone. Potremmo mettere in piedi un Innovation Academy. E cioè? Ecco, una sorta di scuola di innovazione che coinvolge tutta l'azienda. Stop, silenzio, grazie. Paragone, cosa ne pensi? Sentimo che dice il fenomeno. Sarebbe un'ottima idea quella di attivare una struttura interna dedicata interamente all'innovazione, una sorta di academy che coinvolga tutta l'azienda. Mi sembra una grandissima idea, Paragone. E te pareva. Ma è fantastico, lavoro subito al logo per la nuova academy, poi bisognerà preparare tutte le brochure, gli inviti, un mucchio di lavoro. Ecco, bello, vi vedo carichi, così ci siamo, però mi raccomando, voglio roba concreta. Dove concreto sta per fatturato. Pacco, allora come va? È da un po' che non ci parliamo, eh? Come va intanto il coordinamento del progetto di innovazione nanotubi? Sei contento? Ah, dottore, intanto non c'è meria coordinamento il fatto di stare in azienda 2 ore in più la notte a collaborare ai lavori di riconversione delle X900 con i nanotubi. In più scrivere i report e fare le fotocopie. Oltre che stagista, adesso sono anche operaio. Così, stai sempre a lamentare. Non lavori e te lamenti, lavori e te lamenti. Sì, e poi guardi, Pacco, che lei così amplia le sue competenze, garantendo competitività all'azienda sul mercato. Esatto. Inoltre lei è anche fondamentale per il processo di innovazione che stiamo portando avanti in azienda. Ma sarà? Ecco, poi ascolta, sta storia di innovazione è piaciuta così tanto a Surpezzo che ha deciso di creare una nuovissima Innovation Academy. È una grande occasione, Paco. Il mio lavoro, più i nanotubi, più l'Academy. Ah, ma allora finalmente caverò l'assunzione. No, Paco, sarà una collaborazione pro bono la tua. Cosa sarebbe? È una nuova scuola per l'innovazione che costruiremo insieme. Organizzeremo tantissimi corsi e tantissime iniziative e poi raccoglieremo i feedback dei clienti e così innoveremo al meglio, è bellissimo. A me tutto questo plurale mi convinci poco. Allora, schedula, dammi un po' di risultati. Come sta andando questa nostra Innovation Academy? Guarda, Marco, abbiamo attivato tanti programmi interessantissimi. Ecco, qualche esempio, magari. Allora, abbiamo attivato i top forum per far dialogare il top management con esperti internazionali sul tema dell'innovazione. Poi? I middle forum rivolti al middle manager per farli dialogare con altri esperti del settore. Poi abbiamo attivato il welcome forum per far dialogare... Schedula, non ci siamo, NCS! Ho speso una barca di soldi, ti ho chiesto una roba concreta e qui non fate altro che dialogare. Ma dove siete? Dal parrucchiere. Ma Marco, gli incontri sono organizzati proprio per far crescere professionalmente. Ascolta, Marco, niente, non ci siamo capite, schedula. La gente deve lavorare, non dialogare. Allora potremmo... Silenzio, stop, basta, hai già parlato troppo. Adesso te lo dico io che cosa dobbiamo fare. Via i forum. Sì, possiamo allora fare dei workshop simulando... Simulando nulla, siamo qui a lavorare. Si fa sul serio stavolta. Facciamo sporcare le mani all'azienda. Cosa ne dici, Paragone? Che sarebbe utile convogliare le energie dell'azienda su progetti concreti, operativi, direi. Facciamogli sporcare un po' le mani. Bravo, vedi che tu mi capisci. Allora, schedula, prendi nota. Dove c'è scritto top, middle, medium, large, welcome, quella roba lì con in fondo forum, abolire. Si attivano da oggi le top, middle, welcome fabric, che collaborino tutti allo sviluppo dei nanotubi, che mi costano una sassata e ancora non ho capito che cosa sono. Ma questa non è Innovation Academy. Infatti è un Innovation Fabric. Lo vedi come siamo innovativi? In fabbrica devono andare questi fancazzisti. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.